Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. La palla è ora a Tardelli, scatto di Tardelli, saltato il mediano McKinley che cerca di arrivare a Savoldi, tiro, Luca di McKinley, tibia di Savoldi, naso di Antonioni, Luca del portiere inglese, naso di McKinley, tibia di Benetti, Luca, naso! Invece che si tira il palo, la palla è ora. E orientamela! Non si sentiva. Tiro pauroso, palo! Palo! Palo! Ugo, dove vai? Torni, papà! Si ripartono ancora una volta, si avvicinano all'area di rigore inglese, arrembaggio degli azzurri, salto di Antonioni che quasi si arrampica sulla schiena di McKinley. Così, chi ha fatto palo? Colpito da McKinley, regola del vantaggio, schienata paurosa del portiere inglese. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione. Lo so, questo è un programma di sport, bizzarro, in alcuni casi definire lo sport cultura, ma è così, cultura popolare in senso lato. Ma un grande della cultura vera che amava lo sport e l'ha raccontato in mille modi, non c'è più, Paolo Villaggio, lo ha raccontato a modo suo. Per questo oggi tutti convocati, che vi farà compagnia per tutta l'estate, parte da qui e abbiamo rubato al sabato del villaggio Marta Cagnola, che è qui in studio con me. Buongiorno. Ciao. Carlo, buongiorno a tutti. E Guido Bagatta è un uomo che sa di molte cose, sport americani, sport americani e cinema su tutto, ma poi di molto altro, ed è tifoso della Genova blu cerchiata come era Paolo Villaggio. Potevamo non chiamarlo. Ciao Guido. Eccoci qua. Allora, buongiorno. Vi lascio una punteggiatura a testa prima di far sentire altri modi di raccontare lo sport attraverso Fantozzi, ma anche attraverso altri film, come mi diceva prima Guido Bagatta al telefono. Allora, io chiedo a voi sportivi se siete appassionati dei vincenti o dei perdenti tenaci, perché Fantozzi era un perdente, perdeva sempre, ma quanto era tenace lui, non gli importava di perdere, perché poi gli sport li faceva tutti. Io ho un po' di appunti, sì, calcio, sì, biliardo, facciamo, tennis, sentire anche altre il cose. Ciclismo, l'atletica leggera, il canottaggio, ma soprattutto, come diceva lui, sono stato azzurro di sci. E quindi, ragazzi, lui non ha mai vinto, ma ha sempre giocato. Credo sia un bel insegnamento anche per gli sportivi. Guido, dove eri ieri? Ieri ero per curiosità, per una serie di cose in croce della vita, ero a Monteriggioni, perché io da senese ero al Palio. Sì. E quando vado alloggio a Monteriggioni per stare un po' fuori dalla calca della Siena, pre-palio anche dei turisti. Monteriggioni è un posto incredibile perché è un castello col paese dentro, un caso, sì, unico in Italia. E in questa piazza in Monteriggioni io negli anni 90, per la precisione nel 94, ho visto girare un film di Monicelli con Villaggio protagonista sul pugilato, che si chiamava, adesso ti dico subito il titolo, sono talmente emozionato di parlare di Paolo detto, Villaggio me l'hai che detto, mi hai detto prima me lo che mi, no, te lo dico subito io. Cari fottutissimi amici, cari fottutissimi amici, dove, Monicelli, altro pezzo di storia del nostro cinema, esattamente girato nella piazza di Monteriggioni in una serata d'estate. Si parlava di una sera del 44, e ieri con degli amici raccontavo proprio questo episodio, che io ho visto Paolo Villaggio dal vivo lì e avevo fatto due chiacchiere così durante la realizzazione del film, e poche ore dopo è morto, e da lì poi è iniziato il mio pensiero, come dicevi tu, sullo sport e su tutto quello che riguarda un villaggio che ha attraversato il mondo dello sport in maniera anche paradossale. Sì, parliamo di Sogni mostruosamente proibiti, dove lui interpreta questo personaggio del coniglio, del signor coniglio, che gioca a tennis con Borg al Foro Italico e praticamente rincorre una pallina su uno smash di Borg in giro per Roma e va a rispondere di rovescio, praticamente credo dalla macchina da scrivere, più o meno da Prati, ecco. Beh, cioè, è Paolo Villaggio lo sport, e soprattutto Paolo Villaggio quel tipo di sport, come diceva poco prima. Sì, e anche la, insomma, cose che conosciamo tutti, che tutti abbiamo visto almeno una volta nella vita, come la visione della partita dell'italiano medio, no? Questa. Sabato 18 alle ore 20:25 in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile, calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Alzi la mano chi non l'ha sentita almeno una volta. Pensavo che mi chiedessi libero. Alzi la mano chi non fa rutto libero durante le partite. Il secondo tragico Fantozzi, 1976, come la scena precedente, nella quale lui non poteva vedere la partita di calcio che era Inghilterra-Italia in diretta da Wembley, perché era costretto dal suo capo a vedere la corazzata Kotionkin. Allora lui scappa, riesce a ascoltare la telecronaca, la radiocronaca, ma siccome non vede chi ha fatto palo, praticamente rompe il vetro di una finestra per chiedere. Marta, è quasi pleonastico. Sentite, che meraviglia, che meraviglia. Quasi pleonastico, perché abbiamo visto tutti. Dicevi, Guido? No, dicevo che la presa del rutto libero poi ha segnato la mia generazione, e ancora adesso molte volte a tavola, anche di fronte, ormai sono cadute molte barriere di fronte anche alle nostre fidanzate, la frase "beh ragazzi, adesso chi se ne frega, andiamo col rutto libero" è stata tutta generata, perché poi determinati tormentoni la gente li usa e non si ricorda neanche da dove arrivano. Chiaramente la nuvola di Fantozzi, che ancora adesso è utilizzatissima, è un tormentone, ma io sono convinto che molti 12-13 anni che la ripetono non sanno probabilmente neanche da dove è originata la nuvola. Anche ieri, per assurdo, a Siena c'era il pericolo della nuvola di Fantozzi sul palio quando sono puntate le nuvole nere durante il ritardo della mossa. Con la Madonna sulla traversa, con la Madonna quando hanno cominciato a vedere la Madonna sulla traversa, no? Certo, l'apparizione. Ma noi della nostra generazione, Guido, quei film, tu quante volte li hai visti, Fantozzi? Io ho smesso, allora, secondo me sono troppi, perché 10 sono troppi. 10 sono troppi, sicuro. E ha fatto un po' il salto dello squalo, come si dice in gergo, no? Quando vai oltre, originato da Happy Days, quando Fonti saltò facendo uscire d'acqua uno squalo, e da lì in poi Happy Days si andò sgretolando. È un modo di dire il salto dello squalo di chi parla di cinema e televisione quando si va oltre. Ecco, il salto dello squalo Fantozzi l'ha fatto al numero 4, secondo me. Dal quarto in poi si trascina un attimo, fino al quarto è una bibbia per tutti, a partire dalla bianchina. Tra l'altro io ti segnalo, se tu vai a cercare di comprare su qualsiasi sito una bianchina, c'è definita la bianchina Fantozzi, che non è un modello della brutta auto bianca degli anni 70. È quello. Io vi invito, andate a cercare e voi potete comprare la bianchina Fantozzi, che costa meno della bianchina Cabrio. È una bianchina a due porte, un po' fanè, però con le è aperture definita controvento. Credo che avesse già le aperture, però comunque è definita bianchina Fantozzi. Questo vi fa capire quanto ha attraversato Paolo Villaggio il nostro mondo negli ultimi 40 anni. Qual è la scena, Marta Cagnola, che ti ricordi meglio sullo sport di uno di questi Fantozzi? Assolutamente, io sono per inforcare la bicicletta alla bersagliera. Vorrei fare una corsa ciclistica come quella della Coppa Cobram, inforcando la bicicletta alla bersagliera. Io sinceramente no, ma ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Abbiamo poco prima, secondo me, poco prima della bersagliera. La pulce dei Pirenei. Andiamo stasera a fare la solita scambata. Ecco, dove andiamo? Facciamo il giro dei laghi. Facciamoci il giro delle sette colline. Ma che? Io direi andiamo a cenare da una mia zia Pinerolo. Poi torniamo in nottata. Ma scusate, ma sono 1200 chilometri. E che cosa sono 1200 chilometri? Che cosa sono 1200 chilometri? chilometri. Allora, signori tutti, a Pinerolo! A Pinerolo! Avanti! Dove ha messo la sua macchina? Qui dietro l'angolo, vicino alla sua. Allora andiamo a fare questa gita. A Pinerolo. A Pinerolo. A Pinerolo. Tra l'altro, Carlo, ti raccontavo che nel 2011 il Tour de France era passato da Pinerolo e c'era questo ciclista Vauclair che a un certo punto ha sbagliato strada, è finito in un parcheggio e quindi tutti scrissero che aveva fatto la sgambata a Pinerolo. Sì, la sgambata a Pinerolo, però non aveva inforcato la bicicletta alla bersagliera. Non quando, vedo quella scena. Ecco, non gli è staccata la sella, ecco, forse gli è andata bene per questo. Esatto, Guidone. quei film, guarda, la nostra infanzia è stata segnata da questi film. Vabbè, adesso non cadiamo nello sdolcinato del romantico, però almeno la mia, credo anche la tua, da questi film e da quelli dagli amici miei dei Monicelli. C'è anche un altro sport che mi ha divertito molto, non so a voi, Fantozzi e il canottaggio. Il segnale della partenza avrebbe dato a mezzogiorno in punto il cannone del Gianicolo. Mi sa che ci siamo quasi, eh? Eh sì. Amica Lora, per favore. Certo. Mezzogiorno in punto. Ha visto che orologio, eh? Sì, però ha visto la marca. Guido, in quali altri film che ti vengono in mente così Villaggio ha raccontato lo sport? No, o ha usato, dicevo, lo sport? Allora, il signor Coniglio nel tennis e poi la famosa partita di tennis, perché il campo era disponibile solo alle 5 del mattino, un campo inquinato in una periferia drammatica con una nebbia pazzesca, con batti lei o tiri lei Filini, sì, è sì, una sì. frase io, giocando malissimo a tennis, mi ritrovo spesso a citare. E anche quella credo che sia una fotografia sportiva di Fantozzi, è clamoroso. E direi che c'è tutto e di più. Io però volevo anche ricordare un Paolo Villaggio legato al basket, se mi permetti, che nessuno ricorda, dove lui interpreta praticamente un dipendente di un'azienda lombarda che viene mandato in America alla ricerca di un americano per giocare a pallacanestro. Sì. È un po' praticamente quello che succedeva a Cantù in quel periodo. Sì. Lui prova questo americano. Tanto mi si è parcheggiato un autobus vicino, mi chiedo scusa per il sottofondo, ma se mi hai beccato in mezzo alla un po' strada, fantoziana. Un po' fantoziana, sì, anche perché emana un calore, puoi immaginare. Praticamente sono vagata alla griglia, aspettiamo che si sposti, ecco, grazie. No, che tra l'altro Fantozzi va a Detroit cantando la famosa canzone di Fred Bongusso, spaghetti, insalatina, Fantozzi di Villaggio, una tazzina di caffè, e trova questo americano che altro non è che Sterling Saint-Jacques, e poi con gli occhi azzurri divenne un modello cantante, però senza gli occhi azzurri, dimostrando che Sterling Saint-Jacques portava le lenti a contatto già negli anni 70-80. E storia un po', diciamo, un po' troppo lontana, però ricordiamocelo anche fuori dal personaggio di Fantozzi. Questo è obbligatorio, questo è obbligatorio. Guido, io ti saluto, come saluto Marta Cagnola, torno alla mia veste abituale. Batti lei, Carlo Genta. Grazie Guidone, ci sentiamo presto. Grazie a te, estate. E poi Forza Doria. Forza Doria, appunto, vi accomuna questa, te Paolo Villaggio, uso il presente, questa fede. Grazie a tutti, siamo in ritardo sul traffico, in ritardissimo, traffico, poi le moto. Tutti convocati. Tutti convocati. Mi sembra Castro, molto bene Marcos sulla destra del schermo, al centro Danilo Petrucci cerca di recuperare, ha una buona traiettoria interna anche Valentino Rossi, ma sono le due Honda ad andare a girare per prime. L'ha passato, si è messo davanti Folger, è primo, ha fatto la 10 e la 11 come un fulmine. neppure bisogno qui a Sachsenring di fare le sue acrobazie, di accarezzare i limiti, gli viene tutto naturale. Moto perfetta, pilota perfetto per la Germania, il caliente Marquez vince il Gran Premio di Germania, tutti in piedi per Jonas Folger che è secondo con la Yamaha Clienti. Bravo Daniel Pedrosa, anche se non ti abbiamo visto. Terzo a 11 secondi e mezzo davanti a Maverick Viñales e a Valentino Rossi, quarto e quinto. Allora, della gara di ieri a Sachsenring, cioè del weekend del Sachsenring, della domenica del Sachsenring, io personalmente ricorderò la vittoria di Morbidelli, mi pare sia la numero 6. Per quanto riguarda la gara vinta da Marquez, come era da pronostico, mi è sembrata una delle più brutte mai viste dal punto di vista di questo sport. Roberto Ungaro, The Voice, ciao. Ciao Carlo, ben ritrovati a tutti. Abbiamo in linea anche Loris Reggiani da Sky. Ciao Loris. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. È andata, Roby, come da pronostico, Marquez. Non c'era Folger nei nostri piani e programmi, però questi due prendono, vanno via e gli altri non entrano nemmeno nello schermo. Sì, è stata una gara un po' noiosa, a parte quel brividino di Folger che ha osato il sorpasso a Marquez. Hai ragione a dire che non c'è stato lo spettacolo, certo, vedere guidare Marquez in quella pista, su quella moto, un matrimonio perfetto e non è stato male. Io ne approfitterei che abbiamo ai nostri microfoni forse la persona più analitica del mondo delle due ruote, ovvero Loris, e chiederei a Loris se i valori in campo che si vedono oggi sono quelli veri o sono falsati e quanto lo sono falsati dal discorso Michelin. Loris è una persona che può rispondere molto bene a questa domanda. Perché siamo un po' preoccupati, e poi vi spiego perché. Loris? Sono qua. Eccoci, hai sentito la domanda di Roberto? Sì, beh, è evidente che la Michelin non è all'altezza della situazione ancora. E io credo che stare fuori dal motomondiale 8 anni e trovarsi delle moto che hanno magari 50 cavalli in più di quelle che avevano, di quelli che avevano quando la Michelin c'era, e un'elettronica completamente diversa, li abbia messi un po' in difficoltà. Il problema più grave, secondo me, è che si sono messi in competizione troppo presto con i tempi della Bridgestone e non hanno pensato invece, forse avrebbero fatto meglio, magari mi sbaglio, però forse avrebbero fatto meglio prima fare un prodotto affidabile e comunque ripetitivo, magari anche meno performante, prima di andare a cercare la competizione pura con la casa che li ha preceduti, perché secondo me adesso in questo momento sono un po' in confusione per cercare di mettere delle pezze un po' in qua, un po' in là nelle falle che si sono create in questi 2 anni. Sei soddisfatto dalla risposta, Roberto? Intanto io ricordo il numero per intervenire, 800240024, su questo e su tutti gli altri temi che avremo più tardi, dal calciomercato in su e in giù. Sei soddisfatto della risposta, Roberto? Assolutamente sì, infatti il problema è la mancanza di rendimento della Michelin e la variabilità che ha come rendimento in base alle temperature, cioè il delta di utilizzo delle gomme è troppo ristretto e cambiano dei gradi e va a carte 48 tutto. C'è anche da dire che per i non addetti vedere così tanti potenziali vincitori non è male dal punto di vista dello spettacolo. Per esempio un Folger che arriva dalla Moto2, loro usano Dunlop, e subito pronti via, è debuttante in questa categoria, riesce a fare quello che ha fatto. Poi magari ci sono altri punti di domanda, però questo non è male. Poi non so Loris cosa ne pensa. Io parlo per i non, cioè che no, crede, ma di sicuro, monotonia. Roberto, di sicuro abbiamo un campionato più equilibrato, sono tutti distretti in un fazzoletto di punti, ce ne sono tanti, eccetera. Però, vista la corsa di ieri, ormai lo sappiamo già prima, no? Questo è un gran premio per le Yamaha, questo come è un gran premio per le Honda. Sì. E quindi questo è un gran premio in cui le Ducati possono sparigliare. Sappiamo un po' tutto in anticipo prima, e la preoccupazione di chi ama questo sport come noi tre e molta altra gente è che ci si stia un po' avvicinando alla Formula 1, e a me vengono i brividi, francamente, Loris. Non la vedo proprio così, perché Folger non ha usato una Honda ieri e si è giocato la vittoria con una Honda, quindi credo che ci siano una serie di cose che vanno messe insieme e che tutte giocano il loro il loro ruolo. Per quanto riguarda la Michelin, secondo me il problema più grosso non è la ristrettezza del campo di utilizzo, il problema più grosso è invece la non ripetitività delle gomme. Cioè, quando Petrucci mi dice che ieri è finito dodicesimo perché usando una gomma che lui aveva provato e con la quale aveva fatto 25 giri il giorno prima, più o meno con le stesse condizioni atmosferiche, il giorno dopo invece dopo 5 giri era finita, ecco, queste sì. Le gomme difettose creano più confusione che altro, non tanto. È vero che ci sono dei circuiti dove la Honda la fa da padrone, altri dove la fa da padrone della Yamaha, però da quel punto di vista lì, diciamo, la possiamo anche mandare giù, l'importante è che ci siano più o meno gli stessi numeri di tracciati favorevoli, sì, oppure no. Sì, ma il problema sì. È che quando un pilota monta una gomma che crede di conoscere e invece poi si trova un'altra, quello è un disastro, quello è veramente un disastro. Ma secondo voi Roberto Ungaro e Loris Reggiani, adesso c'è una piccola pausa estiva, no? Ci sarà una piccola pausa estiva, si riesce, la Michelin riuscirà a combinare qualcosa di utile in questo breve periodo, no? Roby? Ma secondo me è difficile, il tempo è troppo ristretto, proprio perché il metodo di costruzione delle gomme di Michelin è molto diverso da quello di Bridgestone. Bridgestone magari più lenta, però una volta presa una decisione, quella era, e la gomma aveva un grande avanti, quindi si sentivano su un binario, ed era quella, mentre invece Michelin è più rapida a intervenire, infatti continua a sfornare delle gomme, però questo manda in confusione e soprattutto non dà una costanza di rendimento, non c'è una ripetitività di rendimento, ed è, ha ragione Loris a dire che manda veramente in tilt i team, perché non riescono a costruire un setup, avere appunto una costanza. Permettimi Carlo, perché è una fortuna avere Loris, sì, e allora sì. Voglio chiedergli questo: secondo te Loris, Lorenzo ce la farà a far entrare la Ducati dentro di sé o è una battaglia persa? È un po' difficile rispondere, però io noto in lui un atteggiamento molto positivo per il fatto che lui si mette in discussione. È vero che è aiutato dal fatto che altri Ducati vincono le gare e sono davanti, quindi non può avere l'alibi della moto che non funziona, come invece l'alibi che usa invece Iannone, però lui è un pilota molto caparbio, lo è sempre stato nella sua vita, e il fatto di continuare a dire piano piano miglioro, sono convinto di farcela, prima o poi arrivo eccetera, invece di magari buttarsi giù come forse aveva fatto qualche volta con la Yamaha in questi ultimi anni, secondo me gli dà una forza in più. Poi dopo può sapere, ci vorrebbe la sfera di cristallo, che per adesso è molto lontano. No, io posso solo notare una grande umiltà, perché prendere ste bastonate, un campione come Jorge Lorenzo, ogni maledetta domenica in cui c'è un gran premio, insomma, ci vuole tanto coraggio, ragazzi, ci vuole tanta voglia, tanta caparbietà, al di là dei soldi che ti danno. Assolutamente sì, bisogna vedere quanto tempo riesce a resistere a queste batoste. Esatto. Grazie ragazzi, grazie Roberto, con te ci vediamo venerdì per Racing Team di tutti i convocati, grazie a Loris Reggiani, so perfettamente, a voi che ci scrivete, ieri ha corso anche Cairoli, che è stato nostro ospite venerdì in diretta live con noi, caro ascoltatore. Ieri ha vinto in Portogallo, lo sappiamo, e abbiamo già appuntamento con lui per insomma, io spero, festeggiare l'ennesimo mondiale. Allora, adesso ci fermiamo per la borsa e poi torniamo, andiamo sul calcio, mercato, Inter, Milan, Roma, tutti quanti, insomma. State con noi, chiamate 800 24 00 24, il numero verde. Tutti convocati. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati. e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Allora, ecco che torniamo, preparate i telefoni 800 24 00 24 per intervenire. Volete scrivere? 349 238 6666, messaggio WhatsApp. Io saluto uno dei signori dell'estate del calciomercato televisivo, lo conoscete bene, Sandro Sabatini, no? Ciao. Ciao, calciomercato premium tutte le sere, sarà un'estate caldissima, anzi è già cominciata. Sì. Sandro, volevo affrontare un po' di discorsi larghi con te, ma che mi incuriosiscono abbastanza. Allora, il Milan, lasciamo stare la vicenda della Roma, ne parliamo più tardi, io direi. È arrivato Çalhanoğlu, eccellente giocatore, praticamente squadra smontata e rifatta per 9 undicesimi, ma Çalhanoğlu è un trequartista, correggimi se sbaglio, in settimana arriverà anche Conti, ma il Milan non giocava col trequartista, che vuol dire questo? È che evidentemente si giocherà, guarda, il Milan ha voglia di fare la rivoluzione, questo mi pare evidente, perché che ne so, perfino Suso, capito, non è più sicuro del posto. Ora, tra i giocatori che sicuramente dall'anno scorso meritavano di essere salvati tra virgolette, Suso c'era. Çalhanoğlu di fatto prende, in teoria potrebbe prendere il posto di Suso, oppure potrebbe giocare insieme a Suso con un'unica punta che sarebbe André Silva. Il Milan, guarda, è una grande scommessa, i tifosi sono molto entusiasti, è giusto assecondare il loro entusiasmo. Quello che stanno facendo Fassone e Mirabelli va premiato, se non altro perché sono molto attivi, presenti, con tante idee e tante tanta voglia di innovare e rinnovare. La grande scommessa è vedere se il Milan che si presenterà al prossimo campionato sarà effettivamente più forte del Milan che ha lasciato l'ultimo campionato. Perché sarà, per non sarà, sempre... cioè, di sicuro sarà diverso, Sandro. Di sicuro sarà diverso. Sì. Insomma, i tifosi sono entusiasti anche perché erano anni che non vivevano un mercato così scoppiettante, un giocatore al giorno. Poi vediamo, poi tocca a Montella mettere insieme i pezzi del puzzle. Io mi limito a notare come Çalhanoğlu è bravo, tutto quello che vuoi, il giocatore chiave secondo me è quello che non è ancora arrivato, perché Lotito non molla l'osso, cioè è il leader del centrocampo. Guarda, sì, il leader del centrocampo, ma se devo dire la verità, il giocatore chiave è comunque quello che fa i gol, perché il Milan l'anno scorso ha avuto un clamoroso problema di gol, che dipendevano sia da chi finalizzava, insomma è stata la peggiore stagione di Bacca, questo mi pare evidente, sia anche da chi dava, impostava il gioco, e almeno in questo non credo che si debba dare però la colpa a Montolivo, anche se non altro perché Montolivo non c'è stato, c'è l'anno stato scorso, praticamente fuori tutta la stagione, certo. Nel però Milan, sai, io parlo anche di leadership, sai bene che mi riferisco a Biglia, cioè lì in mezzo il Milan aveva l'anno scorso, oltre a deficit di gol, un clamoroso deficit di personalità, e servono giocatori di personalità. Intanto Terry va in championship, ma non si era ritirato Terry dal calcio o solo dall'ara? Io avevo visto la festa del ritiro. Festa del ritiro, sembrava... adesso lo vedo con la maglia della Aston Villa. No, sembrava un ritiro, l'avevamo fatto anche tutti i servizi, ne avevamo parlato come inglese. Bravo, l'avevamo celebrato adesso, maglietta dell'Aston Villa, vabbè, si cambia sempre idea. L'altro domandone dell'estate, io l'ho fatto mille volte, Inter va bene, blocchi di partenza, sarà il mercato dei sogni? Penso di sì. Perché anche perché d'estate sognare non costa nulla, no? È una frase che si dice sempre, nel caso dell'Inter c'è questa mania della nuova società e di Walter Sabatini di mettere a disposizione di Spalletti la squadra che vuole Spalletti, ma anche poi di regalare ai tifosi un giocatore che faccia, quale che accenda la fantasia. Sì, esatto, una volta si diceva sotto l'ombrellone. E quando l'estate indubbiamente duravano di più le vacanze, la villeggiatura. Sì, sì, la villeggiatura, per rimanere in tema di... Abbiamo parlato di Fantozzi che ha segnato una generazione. Ai nostri tempi si diceva la villeggiatura. Quando eravamo ragazzini si diceva così. Ecco, però c'è questa voglia. Io credo che dal Paris Saint-Germain possano arrivare delle buone occasioni. Buone occasioni non si, dal punto di vista tecnico, non economico evidentemente, perché comunque chi va via dal Paris Saint-Germain... Fammi un nome, dai Sandro, dai, quello che aspettano. Guarda, tutti. Tutti parlano di Di Maria, tutti parlano di Di Maria. Però può essere anche Rabiot, ecco, tra i giocatori del Paris Saint-Germain che può interessare all'Inter. E devo essere sincero, Di Maria comporta la cessione di Candreva o Perisic, comporterebbe Rabiot, sì. Sarebbe uno da far giocare, che può giocare a prescindere, insomma, questo è vero, da altre questo partenze è tanto è lo Di Maria è un giocatore che hanno rimpianto al Manchester United dappertutto, e al Real Madrid dappertutto, perché è un giocatore straordinario, è un giocatore straordinario. Lasciamo stare i capricci di Perisic, rientreranno anche quelli. La Juventus, mercato diverso questo della Juventus. Ma guarda, io siccome ho una buona parola per tutti, la Juventus dico che è un mercato molto più che diverso, perché pensiamo che l'investimento più importante, che sulla carta dovrebbe essere Bernardeschi, sì, sarebbe un investimento per un giocatore che non partirebbe titolare. Questa è la verità, perché partirebbe di rincorsa. È comunque sicuramente un bel prospetto, è sicuramente un giocatore molto tecnico, in prospettiva può diventare un vero 10. È chiaro che la stranezza di questa operazione non è tanto nel trasferimento da Firenze a Torino, quanto semmai nel fatto che i fiorentini si siano rassegnati a un'operazione del genere. Sì. E tutti sanno che da ogni volta che invece era partito un 10 da Firenze, da Baggio a Rui Costa, sì, era stata sempre una mezza rivoluzione. No, stavolta invece sono, sì, rassegnati. Sì, sono quasi rassegnati al di là delle vicende societarie. Mi sembra che la Juventus stia facendo una sorta di pit stop, di cambio in corsa per ringiovanire la squadra continuando a vincere. Però anche qui la assenza determinante che si è notata l'anno scorso, solo in parte coperta da Marchisio, era quella di un centrocampista di backup, semmai di cambio a Khedira, insomma un centrocampista di quel tipo lì che si è avvertita fino alla fine, poi mascherata nel campionato italiano, mascherata in Champions League fino alla finale. Sì, ma io credo che infatti il primo acquisto della Juventus come importante, in ordine di importanza, sia proprio quello del centrocampista. Questi erano i progetti all'inizio, il giorno dopo Cardiff. In realtà poi la partenza di Dani Alves, che non era ipotizzata, esatto, ha creato un po' di emergenza, ha cambiato quest'ordine, questa priorità. Però è fondamentale che la Juventus abbia dei ricambi sia sulle fasce, perché non può fare tutto l'anno con Quadrato e Mandžukić che coprono tutta la fascia avanti e indietro come pendolini, sia anche tra i due a centrocampo, perché poi con Marchisio ci vogliono quattro giocatori che siano veramente intercambiabili per sostenere quel lavoro, senza accusare mai dei momenti di flessione, ecco. Chiaro, tutto questo è chiarissimo. Si tratta di allungare la rosa, di svecchiare la rosa continuando a vincere. Per questo ti paragonavo le operazioni della Juventus. Prova a leggere tra le righe una sorta di pit stop in corsa. Sandro, dammi un secondo, ho il traffico, e poi un'ultima cosa sul Napoli. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Come detto, l'ultima battuta con Sandro Sabatini, il signore di Calciomercato Premium. Io non sono d'accordo con quelli che dicono che il Napoli non stia facendo mercato. Il Napoli ha fatto un mercato diverso, Sandro, e secondo me adesso è la seconda forza del campionato, non so quanto sia distante dalla Juventus. Guarda, una battuta che ai tifosi della Roma non fa piacere, che se non altro per sottrazione, no? È la seconda forza, perché la Roma ha perso dei giocatori importantissimi, e il Napoli invece i giocatori più importanti li ha conservati. È chiaro che è il grande dilemma sul Napoli è capire se Mertens e Insigne, per esempio, sono andati anche oltre le loro potenzialità nel campionato scorso, oppure se semplicemente sono giocatori che possono tranquillamente riconfermarsi se non migliorare. Questa seconda ipotesi, io vedo il Napoli all'altezza della lotta scudetto. Poi è chiaro che contano i dettagli, i particolari, i momenti, i frangenti, gli infortuni, eccetera, eccetera. Certo. Il Napoli è la seconda forza. È la seconda forza del campionato in questo momento, e Milik l'anno scorso praticamente non ce l'ha avuto, quindi anche lì sono curioso di capire il ruolo di questo giocatore. Sandro, ti ringrazio, ci sentiamo presto. Ciao, ovviamente. Ciao Sandro Sabatini. Ascoltatore Alessandro, la provincia di Savona, poi facciamo un salto sull'erba più bella del mondo che non riguarda il calcio. Alessandro, buongiorno. Oh, buongiorno gente. Buongiorno. Appuntamento obbligato. Obbligato. Volevo grazie. Chiedere, con tutta l'intelligenza che c'è in tutte le varie emittenti, in tutte le parti, Biscardi compreso, sì. È possibile che, poi l'argomento è fuori dal tema di oggi, è possibile che in tutti questi anni non sia mai venuto in mente a nessuno di istituire o di proporre di istituire un premio esclusivo ai portieri in Europa o in Italia? Sì. Cioè, il pallone d'oro a un portiere non andrà mai. No, ma non andrà mai. Semplice, un premio solo per i portieri. Solo per i portieri. Sì, idea internazionale lei dice. C'è una sorta di pallone d'oro che va al portiere, perché tanto a questo qua non glielo diamo. Lo diamo a quelli che fanno gol, lo diamo esatto. Agli altri. Beh. Sarebbe anche logico. Lo istituiamo noi, facciamo un comitato. Facciamo un comitato. Radio 24, Alessandro, la provincia di Savona. Chi vuole iscriversi? Come si fa? I gruppi su Facebook. Facciamo un premio per il portiere. Poi si tratta di capire chi ci mette il grano, Alessandro. Io lo farei. Ma tanto lo sappiamo, no? Quali sono i portieri che ti portano i punti. In questo momento io credo i portieri ti portano i punti sono Neuer, sono Buffon, gli altri grosso modo sono lì, insomma. Andiamo, dicevo, allora, secondo voi qual è l'erba più bella del mondo che non riguarda il calcio? Io lo so, e Stefano, mio amico Stefano Melocaro, anche. Ciao Stefano. Beh, vabbè, qui Carlo, cioè, qui siamo a 7 mm, sai che l'erba di Wimbledon è alta a 7 mm, sì. Ed è quella lì, è pratino, è meglio di quello di casa tua e di casa mia, cioè io a casa mia non ce l'ho il pratino, no, tu ce l'hai? No, non ce l'ho, non c'è neanche una casa al momento, ma lasciamo stare, lasciamo stare. No, però il problema storico da quando guardo Wimbledon, cioè da quando ero bambino, cioè da un miliardo di anni fa, è che poi per la finale si spera tutta la linea di fondo. Allora, io la soluzione ce l'ho. La soluzione esiste ed è quella dello stadio del Sassuolo, è l'erba rinforzata, sai, l'erba quella che adesso si usa nella maggior parte, in molti campi di calcio che hanno problemi, no? Sì. Cioè quella che è metà erba e metà plastica praticamente. Che a Wimbledon le tradizioni non si se ti sente il giardiniere capo di Wimbledon, capito, vaglielo a spiegare, da queste parti. Tra l'altro tu sollevi una questione interessante, perché stiamo cacceggiando, ma in realtà se Wimbledon si giocasse sempre su erba vera e non su erba battuta o terra battuta erbosa, come bravo. Succede nella seconda settimana, chiaro. Chissà se i risultati sarebbero gli stessi. Certo, questo è, ragazzi, si parte da Borg con tutte le volte che l'ha vinto, era un terraiolo, e poi arriviamo al fatto che il gioco a rete lo vedi ormai di rado. Se le cose vanno come si ipotizza che vadano, secondo me no. Semifinali Federer, Djokovic e Murray Nadal, quota bassa per queste semifinali, almeno da parte mia. Allora guarda, io ti dico una cosa, dal 2002 che è l'anno in cui vinse Leighton Hewitt, non so se te lo ricordi, sembra un'epoca geologica fa, cioè l'anno prima del primo Federer, sì. Da quell'anno lì Wimbledon è l'unico dei quattro slam in cui hanno sempre e solo vinto i Big Four, cioè Federer, Nadal, Djokovic e Murray. Cioè l'erba, che sembra la superficie un po' più casuale, no? Quella in cui possono accadere più sorprese, perché invece alla fine è la più tradizionalista, cioè in tutti gli altri slam si è infilato a meno uno sconosciuto, sì. Sconosciuto per, diciamo uno non compreso tra questi quattro, sconosciuto per modo di dire, qua no. Per cui, boh, se me lo dici oggi ti dico che le semifinali probabili sono quelle, però poi sai, la palla è rotonda, è gialla e a testa pure pelosetta. Sì, ma poi noi ci ricordiamo quando invece a Wimbledon si infilava il sedicenne Becker, si infilava Chang, si infilava Edberg, si infilava, come si chiamava l'australiano? Pat Cash. Si infilavano gli outsider su quell'erba. Adesso mi, sì, mi dici lo stesso più. Pat Rafter australiano Rafter. Ancora. Adesso è tutto molto standardizzato, più standardizzato, però sai, senti, qualche sorpresa è sempre un'ultima cosa, tanto Wimbledon comincia oggi, quindi abbiamo un sacco di tempo per chiacchierarne. Torna la Kvitova dopo la coltellata per rapina subita alla mano, ragazza che ha vinto due volte E non sta benissimo, però vista la situazione molto intricata del tennis femminile, non si capisce mai chi può vincere, che se viene fuori lo Stapenko di turno che vince Parigi, sarebbe un bel sogno se potesse vincere la Kvitova, ma anche la Azarenka che torna dopo essere diventata mamma, visto che Serena ha detto che vuole tornare dopo essere diventata mamma, visto che ieri ho intervistato la Clijsters che vinse tre slam dopo essere diventata mamma, un'ora fa ero in collegamento con la Pennetto, ho detto Flavia, cioè deciditi, torna a giocare, perché in questi periodi secondo me semifinale a Wimbledon la fai pure tu se stai lì 3 settimane. Amico mio, tieni acceso il telefono in questo periodo? Sto qui, non ti preoccupare, non ho niente da fare dalla mattina alla sera, immagino Stefano Melocro da Sky, c'è niente da fare dalla mattina alla sera e lì a Wimbledon a seguire ogni battuta, ogni battuta. Grazie a Stefano Melocro, ci fermiamo, ciao. Poi ciao Stefano, ci fermiamo, poi dopo il GR, allora flash su Donnarumma che ci ha rotto le sgate, però non può mancare. La questione a Roma, che è una delle più appassionanti del momento. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, e se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Sono Giampaolo Musumeci. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano. Dal 9 luglio, tutte le domeniche, alle 19.10, su Radio 24. Te ne vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Convocati. Domanda: si può saltare una puntata della telenovela calcistica dell'estate? Risposta: no. Gigio Donnarumma, che oggi apre i servizi sportivi del Corriere della Sera con un pezzo di Arianna Ravelli che ho letto con molta attenzione. Ciao Arianna. Ciao a tutti. Ciao. Senti, dentro o fuori, perché, prima cosa che ti chiedo, perché tutta questa fretta da parte del Milan? Beh, insomma, perché potrei risponderti perché oggi è iniziata la stagione con le visite mediche, i test, insomma, il Pastore aveva detto che voleva dare, per quanto riguarda il mercato, il 70% della rosa a disposizione di Montella per il giorno del raduno, e insomma è bizzarro che il giocatore che aveva già in casa sia ancora lì che penzola. Così in bilico, e poi perché il Milan se no compra un altro portiere e quindi deve anche muoversi. Detto questo, è anche cambiato, insomma, l'atteggiamento del Milan si è ammorbidito rispetto agli out iniziali. Senti, gira voce che Raiola sia venuto in Italia per il trasferimento di Pellegrini alla Roma in gran segreto e abbia fatto un salto a Castellammare di Stabia per parlare con i familiari di Donnarumma dopo Montella mangiare una bella pasta asciutta col pomodoro e abbia ribadito l'offerta del Real Madrid. È in corso un braccio di ferro, aspettiamo questo incontro tra Raiola e il Milan, quando non si sa. No, non si sa, e secondo me c'è anche il rischio che noi non lo si sappia fino a quando non si è svolto. L'idea è quella, adesso la volontà di tutti è quella di mantenere un profilo bassissimo dopo che c'è stato così tanto clamore. Ora non ci sono segnali di incontri, a questo punto comincio a dubitare che avvenga oggi. diciamo che sì, quello che dicevi tu è corretto, cioè Raiola ha parlato con la famiglia e il ragazzo, si è visto e si sono delineate un po' queste due posizioni che poi sono, erano diciamo deflagrate la famosa domenica dei social, del finto hackeraggio. Ma appunto tenere un profilo basso come fai? Come buttare la carne nella gabbia dei leoni e poi sperare che non la mangino? Diciamo che però intanto noi oggi non sappiamo ancora nulla di un incontro, abbiamo una data ufficiale, già questo significa se secondo me loro si sono sentiti e si sono e hanno un'idea di quando si vedono e noi non lo sappiamo, già questo significa tenere i riflettori bassi, vuol dire non avere 100 giornalisti nel luogo dell'incontro, però voglio dire sono tutte cose, insomma, come dire, cure palliative, bisogna arrivare a un punto e finché non si arriva l'attenzione è lì, cioè, non c'è dubbio. Anche Donnarumma deve arrivare a un punto, quello della maturità, insomma, qualche giorno, io direi qualche giorno e sapremo, no Arianna? Sì, sì, io speravo di poterti dire stamattina qualche ora sapremo, perché francamente sta storia ha anche un po' stancato. Temo che invece sia più giusto quello che hai detto tu, qualche giorno. Portiamo pazienza Arianna. Noi... Sì, però resta l'ottimismo, diciamo, in generale del Milan di riuscire a scappare. Ma io credo che credo che ormai sia, facciamo sia le previsioni come gli aruspici, finirà così che Donnarumma resta al Milan e poi Raiola farà i conti con se stesso. Penso proprio di sì. Porta pazienza anche tu per qualche giorno, come apportiamo ormai da troppo tempo questa vicenda che c'è francamente abbastanza fragassato, vabbè. Scusami Arianna, noi siamo abituati dopo il closing. Siamo pronti ad avere a tutto. Dopo un po' basta, dopo un po' un bel film e via, un paio d'ore. Grazie, un abbraccio. Ciao Arianna Ravelli. Grazie, ciao. Secondo voi i tifosi della Roma sono contenti oggi? La Roma sapeva che il giocatore che sarebbe stato sacrificato si chiamava e si continua a chiamare Manolas e che quindi Rudiger sarebbe rimasto. Allora, io non voglio pensare che Monchi sia un fagiano, non voglio pensare, però un pochino incauto si può dire, Guglielmo, nel fare quell'affermazione. La Roma non entusiasma e il presidente Pallottas è un americano non proprio del tutto schietto, quindi mi lascia un po' perplesso. Faccio una preghiera, non so a chi devo rivolgermi, però la faccio pubblicamente. Ecco, io spero che non apra bocca Pallotta. Spero veramente con tutto me stesso che Pallotta stia zitto e non dica niente fino alla fine del mercato, perché al di là delle solite banalità che lui dice quando parla della Roma, del calcio, eccetera, eccetera, stavolta deve proprio stare zitto perché ne ha dette talmente tante di cose che poi non si sono rivelate vere che adesso lui deve fare grande silenzio, ok? L'Assa ha scombinato i piani della Roma e quindi la Roma ha dovuto decidere molto rapidamente, perché l'atto lo dico io, quando c'è stata la foto di Naïm Golan che stava così su Instagram che diceva pensando al futuro, la Roma lo sai che cosa gli ha detto? Gli ha detto preparate perché o tu o Strootman o Rudiger, uno dei tre se ne deve andare perché noi dobbiamo sistemare il bilancio, se no fallimo. Beh, tanto contenti non sono. A me la vicenda della Roma appassiona molto di più di quella ormai stantia di Donnarumma, perché allora arriva Monchi, prima cosa che fa preme il grilletto su Totti, quello che nessuno aveva coraggio di premere, dicendo, non scrivendo su Twitter le cose. Poi vende Szczęsny, vende Salah perché c'era questo appuntamento del 30 giugno e vabbè. Vede Paredes, Manolas non lo so, magari anche lui. Paredes lo vende bene allo Zenit, 27 milioni tutto compreso, eccetera. Ma poi vende anche Rudiger e ci sono voci intorno a Naïm Golan. Roberto Renga, buongiorno. Buongiorno. Beh, ci sono delle certezze attorno a Mario Rui. Guarda, io penso che una società sia libera di fare ciò che vuole, assolutamente, però io fossi in questo caso il presidente della Roma spiegherei che cosa sta succedendo, cioè tipo scusate abbiamo bisogno di soldi, e invece lui ha detto compreremo, faremo grandi acquisti, lasceremo intatta la difesa, e la difesa come sapete non c'è più, quest'anno punteremo sui giovani e i giovani li stanno regalando a tutti, anche vendendo al Sassuolo 8 milioni e mezzo, due giocatori, eccetera. E cioè non se ne sta verificando una. No, arriva... no, ma Roberto, allora lo stadio, situazione sbloccata, poi lo vedremo quando lo vedremo, penso, vabbè, tra, penso tra molto, ma come, o se lo vedremo. Però è curiosa sta vicenda, no? Arriva Monchi dalla Spagna. E fosse stato un nostro direttore sportivo qualunque, in questo momento l'avrebbero già menato sotto casa. E invece va lì, bello bello, con il suo sorriso e la sua bella barba, e vende tutti. Tutti no, saldi, poi... grandi saldi no, perché però no, no, vendono bene, questo sì. Sì, vendono bene, poi però bisogna anche comprare. Cioè, bisogna anche comprare. Dove va la Roma? Ettore Moreno, va bene, capitano del Messico per l'abbiamo visto. L'abbiamo visto alla Confederation Cup. L'abbiamo visto. Avremmo fatto meglio a non vederlo. Esatto. Ma sai, le dichiarazioni di Monchi, che a me sta simpaticissimo, c'è questa ma anche a me, ma proprio ma è la sua fortuna quella di dare questa impressione. Sì, perché tutti diciamo, ma questo è emaciato, la notte non ci dorme, chissà quanto ci soffre. Però la prima cosa che ha detto, la Roma non è un supermercato. E come sai, nei social ormai c'è lui, no? Che vende al supermercato, vende qualunque cosa. Sì. Roma non è un supermercato, e mi pare abbia detto un giorno anche che Rudiger non si vende. Zero possibilità su 100 che vada via. Uh-huh. Ma ecco, io dico, porca miseria, le bugie nel calcio si dicono. Per quante me l'hanno dette. Ma tu il primo giorno subito così sparato, subito... Cioè, ma almeno aspetta, non lo so, ambientati, se, un mese, aspetta qualcosa, fai qualcosa. E per cui diciamo che Roma è leggermente spiazzata in questo momento, sì. Perché comunque c'è anche qualcuno che dice, ma guardate che adesso spenderanno tutti i soldi, no, per comprare. Io non credo, io, sicuramente la Roma comprerà, sicuramente la Roma metterà insieme una squadra di calcio, questo ne sono sicuro. Però non credo che se avessero voluto veramente spendere tutti questi soldi avrebbero venduto di corsa per esempio Rudiger dopo appunto, che Manolante era saltato. Appunto, sono entrati sai quanti? 140 milioni finora. Lo so, facciamo che 40 devono entrare nella storia del fair play fatto con Salah, giocatore non facilmente rimpiazzabile. Sono arrivati... 42 dovevano essere per i pagherò lasciati da Sabatini, come Monchi ha fatto sapere. Vabbè, poi altri? Gli altri che viene fatto? Perché considera che nel frattempo sono stati 50 milioni di prestito e i 50 milioni che entreranno per la Champions. Che come esatto, sai, tutte esatto. Le squadre li scontano prima, da 50 diventano 48, ma sono sempre soldi. Sono sempre soldi. Dove stanno? Pellegrini, Caldrop, Moreno e Gonalons. Moreno e Gonalons lo conosciamo. Vabbè, buon giocatore. Sì, molto bravo. Eccellente giocatore. Va bene. Caldrop votato, mi diceva, miglior terzino sinistro del campionato olandese. Con tutto rispetto del mondo e con pardon de las damas, come diceva Maradona. Campionato olandese, va bene, ci piace, ci sono simpatici gli olandesi, la maglia dell'Ajax è la più bella del mondo, però è il campionato olandese. Sì, lì lo sai che qual è la sicurezza, poi sempre se sicurezza si può parlare nel calcio, è che lo voleva di Eusebio Di Francesco lo voleva già per il Sassuolo. Quindi vuol dire che l'ha seguito e l'ha riseguito. Io l'ho visto una volta solo, per cui so solo che quando va all'attacco è bravo e quando trova gli spazi è bravo, punto. Vabbè. Non so altro. Io neanche. So soltanto che adesso si è fatto il menisco, però. Lo so, ma dicono, lo sapevano, è arrivato rotto, corno del menisco è una... Oggi come però magari potevano pagargli un po' meno, no? Farlo pagare. No, magari però... l'operazione, tu dici. Almeno qualcosa, perché sai partire con un mese di ritardo non è il massimo, perché no, vuol dire che lui comincerà a prepararsi ad agosto e quindi sarà pronto a settembre. Dimmi una cosa, cosa significa questo fatto, anche tra l'altro, che Pallotta aveva rifinanziato il debito con Goldman Sachs? È che probabilmente la Roma ha sempre bisogno di soldi. Io la cosa strana, sai, che è normale, no? Molte società hanno bisogno di soldi, ma qui a Roma... Anche in anch'io Italia, volendo, anch'io, se avanza qualcosa... Anche, andiamo insieme, no? Eccetera, andiamo insieme. Per carità. Però noi non abbiamo esultato per plusvalenze, no? Ogni anno a Roma, plusvalenze. E non abbiamo venduto ogni anno un sacco di giocatori. A me non risulta, io non l'ho fatto e tu nemmeno. No, io no. Però dici, nel frattempo la Roma ha vinto lo scudetto, ha vinto questo, ha vinto due Coppe Italia. No, la Roma non ha vinto niente. No. E anzi, adesso secondo me nel ranking sulla griglia di partenza va abbondantemente dietro al Napoli. Sì, ma è anche dietro la Lazio. tu lo sai che la Lazio, no? Che c'ha il bilancio negativo, perché tutti parlano di Lotito, eccetera. Ha vinto poco la Lazio, ma ha vinto più della Roma, perché ha vinto una Supercoppa e una Coppa Italia proprio contro la Roma. A parte il fatto che è un'eccellente squadra, però quando vai lì e vuoi un giocatore, hai a che fare con uno. Per esempio, io De Vrij è un giocatore che me lo piglierei subito. Ma il Milan sta comprando chiunque, compresi buoni giocatori, gli manca il giocatore fondamentale, ne parlavo prima, che ai loro gioca nella Lazio a anni 31, il contratto in scadenza l'anno prossimo e Lotito ne vuole 20. Ma facci tu a trattare con Lotito, a me viene l'esaurimento nervoso. Lotito c'ha due campioni sotto mano, uno è Keita, Vale Salah ed è più giovane, e l'altro è Milinkovic-Savic. Bravissimo. Ma questa è una cosa incredibile da quanto è bravo. Ma lo so. Infatti la Lazio è un'eccellente squadra che alla fine merita la posizione in classifica, merita il campionato che ha fatto, ma non c'è niente di strano, perché è un'eccellente squadra. Il discorso è che vacci tu a trattare con Lotito. Mi riguardo bene. Il Milan, allora, stiamo facendo un casino spaventoso per Donnarumma, ma l'acquisto numero uno da fare, secondo me, era il giocatore, era il biglia della situazione, cioè quello che mancava evidentemente al Milan l'anno scorso, il giocatore di personalità, quello da cui far passare la palla quando devi organizzare, datela a me, ci penso io. È fondamentale. E questo, anche nell'Inter. All'Inter arriverà Borja Valero, al Milan, vediamo. Arrivano tutti gli altri, ma lì. È vero, assolutamente vero. A parte che adesso ci sono alcune squadre, tipo il Barcellona e tipo il Real Madrid, che non mettono più il regista, ma ci mettono l'incontrista. Però un incontrista che sa giocare anche la palla, no? Sì, parliamo di personalità. Barcellona e Real Madrid, certo, di personalità hanno tutta quella che vuoi. Il Milan fa difetto, poi vediamo con i nuovi acquisti. O ne avrebbe bisogno. Roberto, ci sentiamo presto. Ho l'impressione, ho paura. Buon mercato. Ciao Roberto Renga. Allora, dalla Francia stanno arrivando invece un sacco di giocatori, quindi è il caso di fare un giro dalle parti di Federico Casotti, per chiudere, direttore di gol.com. Ciao Federico. Ciao a tutti. Il campionato francese lo conosce come pochissimi, e quindi vale la pena di farci presentare chi sta arrivando dalla Francia, a cominciare da Unada, che dal Bordeaux sta facendo le visite mediche con il Napoli. Chi è? Che giocatore è? Sì, ma guarda, ci sono in realtà dei nomi accostati in questi giorni alla Francia, tra Francia e Italia sono profili tra i più vari. Unas è un nome interessante perché arriva al momento giusto della sua carriera in Italia, perché ha 20 anni, ma ha già fatto due campionati da titolare nel Bordeaux, che insomma per un ragazzo di 20 anni significa aver iniziato a 18, e insomma una bella esperienza al di sopra sicuramente della media dei suoi coetanei. Brevemente i pregi: grande tecnica di base, il gusto per la giocata anche abbastanza raffinata, tecnicamente ben riuscita, esterno d'attacco di grandi potenzialità. Difetti è che è un po' un cavallo pazzo, è un po' indisciplinato tatticamente, però c'è anche da dire che l'Italia, il campionato italiano sotto questo punto di vista può fare miracoli, può aiutarlo tantissimo, lo vedo bene con Sarri, indisciplinato tatticamente, lo vedo bene con Sarri, tempo che gioca, però se c'è uno che lo può raddrizzare è lui, non ho dubbio, però conoscendo un po' Sarri, non Onas ma Sarri, tempo che gioca è il 2018. Comunque, Goran Loss era ostaggio del Lotito francese dal Lione, arriva in Italia, lui lo conosciamo, 28 anni, è un eccellente giocatore, non si discute. Sì, assolutamente, poi arriva a un prezzo stragiusto, anzi a farone per la Roma, è in scadenza, giocatore di centrocampo che ha fatto un'ottima carriera con il Lione. Arriva secondo me alla grande occasione al di fuori della Francia, non dico fuori tempo massimo ma quasi, perché 28 anni è il momento ideale. Anche qui stiamo parlando di un ragazzo che quando aveva 19-20 anni era già lì che giocava titolare in Ligue 1, quindi di esperienza ne ha fatta pacchi, ha bisogno di misurarsi con un campionato diverso, di un livello secondo me leggermente superiore anche qui dal punto di vista tattico. È un giocatore attorno al quale far girare la squadra, e secondo me per Di Francesco diventa fondamentale. Si torna a parlare di Matuidi alla Juventus. quanto ci crediamo? Diciamo che è un tipo di giocatore, un tipo di profilo che alla Juventus può andare bene come soluzione low cost. Non mi sembra un giocatore in grado di far fare il salto di qualità al reparto. Va bene per completarlo. Esatto, però è fondamentalmente quello che serve alla Juventus, cioè completarlo, esatto, con quel centrocampista di esperienza che possa fare appunto da backup, che l'anno scorso e di cui l'anno scorso si è sentita terribilmente la mancanza, può essere lui. Esatto, è un tipo di giocatore che arriverebbe eventualmente anche qui a un prezzo stragiusto, con un investimento minimo o quasi, e anche in questo caso si tratta di uno che è già nell'anno dei 30. Arriva pronto, è l'ultimo buon contratto della sua carriera, perché bisogna fare anche questo tipo di valutazioni. All'interno della rosa è un giocatore che quest'anno è mancato ed è sicuramente un giocatore che ti dà un rendimento garantito, diciamo, per usare un gergo usato, usato garantito. Ultimi due profili che ti chiedo: si parla di Lucas Moura, classe 92, il Paris Saint Germain, costa un trentello di milioni. Si parla della Roma, si parla dell'Inter, è un giocatore che è arrivato al Paris Saint Germain 5 anni fa con grandissime aspettative. Venne pagato, tu hai parlato di 30 milioni, venne pagato 40-45. Beh, ma sai, lì importa poco, 30-45, non farà mica differenza. 5 anni fa venne pagato 45 milioni, quindi è un giocatore che arrivò con un livello di aspettative veramente elevatissimo, che poi evidentemente non è riuscito più di tanto a concretizzare, né a livello di campionato francese, o meglio a livello di campionato francese sì, è in Champions che non è che abbia lasciato il segno, e non lo ha aiutato sicuramente anche essere nel giro di una nazionale brasiliana più disastrata di sempre. Ma l'ha preso Leonardo? Esatto, ancora il periodo. Ci parlavo l'altro giorno, mi ha detto, quando sono andato lì mi ha detto: prendi i soldi che vuoi e facci vincere la Champions League, mica facile. Bisogna costruire una squadra prima di arrivare lì. Non è una missione semplicissima. Parla con Leonardo. Ultimo oggetto del desiderio di molti club, che piace anche al solito Monchi, di cui abbiamo appena parlato, e vediamo che fa con tutti i soldi che sta catastando la Roma, è Seri, nivoriano del Nizza. Sì, che tra l'altro è un profilo un po' particolare, nel senso che contrariamente a quanto si creda, no? Siccome uno pensa ivoriano, campionato francese, cresciuto in Francia calcisticamente, niente affatto, perché lui arriva direttamente dalla Costa d'Avorio, ha fatto qualche anno in Portogallo, sempre nel giro del Porto, di quei club lì, e poi è arrivato al Nizza, dove ha fatto una stagione eccellente. Diciamo che per chi segue il calcio internazionale e non lo ha visto più di tanto, un giocatore che ricorda molto Kanté come tipo di giocatore, come tipo di impostazione, ha segnato tanto quest'anno per essere un centrocampista. Il Nizza ha fatto una stagione praticamente perfetta, è una squadra che farà la Champions League, insomma, diciamo che se uno lo vuole, Seri deve essere molto molto motivato a reggere una trattativa dove il Nizza difficilmente farà sconti. Grazie Federico. Grazie a voi, grazie a Federico Asotti, direttore di gol.com, con cui chiudiamo la prima puntata della settimana di Tutti Convocati. Domani c'è la seconda puntata della settimana, dalle 14 alle 15.30, non vi molliamo per tutta l'estate. Se ci venite a trovare ci fate un favore, 800 24 00 24, chiamateci. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione. Ciao ragazzi, abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti!